cercato di capire e non hai capito ancora se di capire si finisce mai. Hai provato a far capire con tutta la tua voce anche solo un pezzo di quello che sei. Con la rabbia ci si nasce o ci si diventa, e tu che sei un esperto non lo sai. Perché quello che ti spacca ti fa fuori dentro, forse parte proprio da chi sei. Metti in circolo tuo amore, come quando dici perché no. Metti in circolo tuo amore, come quando ammetti non lo so. Come quando dici perché no. Quante vite non capisci e quindi non sopporti, che ti sembra non capiscan te. Quanti generi di pesci e che correnti forti, perché sto mare sì come vuoi te. Metti in circolo tuo amore, come fai con una novità. Metti in circolo tuo amore, come quando dici si vedrà. Come fai con una novità. Capito che più ti opponi e più ti tira giù, e ti senti ad una festa per cui non hai l'invito, per cui gli inviti adesso falli tu. Metti in circolo tuo amore, come quando dici perché no. Metti in circolo